si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme fino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi, una piccola rassegna stampa. Per chi non avesse già seguito la precedente rassegna più approfondita nell'ora scorsa, poi le nostre buone notizie, gli approfondimenti, apriremo il numero verde per sentire le vostre chiamate da subito. Se volete interagire con noi in tempo reale, la pagina Facebook di Si può fare, Si può fare Tatino Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24. Cominceremo con una proposta che riguarda la religione e la scuola, perché in queste ore, mentre si intensifica la protesta nel mondo islamico contro le vignette di Charlie Hebdo, protesta che in Niger diventa addirittura attacco violento con vittime, cioè dalla nostra parte, diciamo così, nel nostro mondo, ci si continua a dividere tra chi pensa che a queste azioni violente debba seguire una reazione altrettanto ferma, netta e forse anche armata, chi invece, mai come in questo momento, pensa che il dialogo sia importante, continuare a parlare, non alzare muri, evitare che le parti moderate e la parte moderata del mondo islamico possa allinearsi ai violenti. E in tutto questo arriva una proposta, che è quella di insegnare la storia delle religioni nelle nostre scuole. Può sembrare una proposta minoritaria, forse peregrina, noi invece vogliamo capire di che cosa si tratta. Tra l'altro viene da una signora che anche organizza un festival delle religioni in Italia. Tutto questo però ne parleremo dopo il giornale radio delle 9. Adesso cominciamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, giornali che si occupano del dopo liberazione di Greta e Vanessa, quindi diciamo quello che sta emergendo anche riguardo al loro viaggio in Siria, delle operazioni contro i jihadisti, espulsi 10 jihadisti in Italia, ma anche delle beghe interne ai partiti con il me ne vado di Cofferati dal PD e le lite interne a Forza Italia tra Berlusconi, niente poco di meno, e Brunetta. Cominciamo con il Corriere della Sera, titolo principale: 10 jihadisti espulsi dall'Italia, arrestati in Grecia altri 4 terroristi, scatta la caccia alla mente della cellula belga. I provvedimenti del Viminale sono arrivati a gennaio, erano in contatto questi 10 espulsi con l'ISIS e Al Qaeda. Presto ci saranno nuove misure. Poi, come diciamo, l'altro titolo su Cofferati che rompe, abbandono il partito. Poi il Corriere, che come ogni domenica fa il sondaggio, passo indietro del PD scende al 34,8%. Poi la fotonotizia, che diciamo le proteste nel mondo islamico contro le vignette di Charlie Hebdo, la fotonotizia viene dal Niger: chiese bruciate per le vignette, gli attacchi nel Niger, le proteste nel mondo, 4 morti e il centro culturale francese incendiato venerdì a Zinder, 8 chiese bruciate ieri a Niamey in Niger. E nella foto c'è una bambina soccorsa dopo aver inalato gas lacrimogeni, quelli usati dalle forze dell'ordine, dalla polizia, dai militari per placare queste violentissime proteste. Dicevamo, a proposito del viaggio di Greta e Vanessa, del viaggio in Siria e delle inchieste che si fanno adesso per cercare di capire chi le ha rapite e come sono andate le cose, il Corriere scrive: la rete siriana a Bologna che le ha aiutate a partire, e poi la procura che dice: le ragazze non si sono convertite. Perché la procura ha seguito tutto questo? Perché quando, prima di partire per la Siria, Greta e Vanessa erano in contatto con questi siriani per avere un appoggio quando arrivavano lì per fare questa missione di volontariato, alcuni di questi siriani erano già intercettati dalle forze dell'ordine, dalla polizia, perché come possibili, diciamo, elementi in contatto con terre di guerra. guerra, segno che il nostro intelligence funziona. Le hanno aiutate nei preparativi per la partenza, scrive il Corriere, verso la Siria, le hanno probabilmente indirizzate verso qualcuno che nel paese martoriato dalla guerra potesse assicurare loro una permanenza senza grossi rischi, ma non sapevano di essere pedinati, seguiti, intercettati. E nelle telefonate che i carabinieri del ROS hanno ascoltato dall'inizio dello scorso anno sono finite anche le voci di Greta e Vanessa, colloqui con interlocutori a cui si erano rivolte, che delineano un percorso che hanno sì seguito per partire dall'Italia, ma contemporaneamente rafforzano il sospetto che qualcuno nella filiera di chi stava dandosi da fare per tutelarle potrebbe averle tradite, vendute ai rapitori che le hanno tenute in ostaggio per 168 giorni. E questo è il sospetto, diciamo, degli inquirenti. Il Fatto Quotidiano ne sa di più perché ha pubblicato queste intercettazioni già ieri e scrive così il Fatto, che ha contattato ieri uno di questi siriani, che dice così: io sostengo solo la libertà del popolo siriano, non sono a favore di alcuna azione bellica e non sono responsabile di quello che sono andate a fare in Siria le due ragazze, ma se mi si accusa di difendere il popolo siriano, io questa accusa me la prendo. A chi mi chiede aiuto a favore del popolo siriano do aiuto. Ho imparato ad amare la democrazia vivendo qui in Italia, detesto ogni forma di violenza, sono contro lo jihadismo e sono contro Al Qaeda e contro l'ISIS, ma sono anche contro Assad, cioè il capo del regime siriano. Sto vivendo una brutta giornata perché vengo collocato, dopo il vostro articolo del Fatto Quotidiano, in un'area che non è mia, l'area, diciamo, dei fiancheggiatori in qualche modo, dei terroristi o di chi ha rapito Greta e Vanessa. Poi conclude: io rispetto le leggi e amo l'Italia. Chi è che parla? Da Anzola dell'Emilia è il pizzaiolo Yasser Mohamed Tayeb, siriano, 47 anni, di Aleppo, uno appunto intercettato dagli inquirenti mentre dava una mano a Greta e Vanessa a andare in Siria. Le ragazze gli avevano illustrato il progetto di distribuire kit di pronto soccorso ai combattenti dell'esercito libero anti-Assad, il Free Syrian Army. Per chiudere questa pagina, Libero ci parla invece di come, diciamo, soprattutto il popolo del web, ma forse un po' anche i commenti in generale, però è soprattutto sui social network che sono affiorate le critiche anche feroci alle due cooperanti, perché sarebbero state ingenue nella migliore delle ipotesi, o addirittura, come le ha definite Dago Spia, le stronzette letterale di Aleppo. Scrive Libero: processo popolare la rabbia dell'Italia sulle due ragazze, lavorino gratis per ridarci i soldi, due eserciti contrapposti, agguerriti. Su Facebook, da una parte la pagina Greta e Vanessa finalmente libere, dall'altra quella Greta e Vanessa lavorino gratis per ripagarci il riscatto di 12 milioni di euro. Tesi del primo schieramento, quello a favore delle due: evviva, le due volontarie rapite in Siria tornano a casa, il governo non ha sganciato un centesimo e chi la pensa diversamente non capisce un tubo. Questo scrive Libero. Argomentazione dell'altra fazione: le due sciagurate se la sono andata a cercare, riportarle a casa ci è costato un capitale che adesso servirà per finanziare Italia Gole. Questo Libero. Dago Spia arriva fino a chiamarle le stronzette di Aleppo, e forse qui si esagera. Comunque ognuno poi credo sia sostanzialmente libero di vederla come gli pare. Su Repubblica invece, titolo principale su Cofferati che lascia il PD: me ne vado da questo PD. Poi c'è l'altra notizia, a parte il commento, il gelo del partito non sa perdere. E poi Forza Italia, Maretta anche qui all'interno di Forza Italia, Berlusconi che licenzia Brunetta. Che succede? Vediamo. Succede questo per quanto riguarda Forza Italia: Berlusconi licenzia Brunetta, rispettiamo il patto con Renzi. Sostanzialmente ieri Berlusconi ha detto, ha assicurato Renzi sul patto del Nazareno, ma anche sull'iter delle riforme in Parlamento, contrariamente a quello che va dicendo Brunetta, che anche ieri in un'intervista al Corriere, dichiarazione al GR1, andava da tutt'altra parte. Sarà guerra, ha detto Brunetta, prima al Quirinale. Prima del Quirinale si andrà ai materassi. Renzi un fannullone, perché aspetta il 20 febbraio per i decreti fiscali che gli italiani aspettano? Perché blocca il Parlamento con due riforme del tutto inutili, quella dell'abolizione del Senato, diciamo, elettivo, e della riforma della legge elettorale? Poi gli chiedono: Berlusconi è d'accordo con lei? Sì, sì, assolutamente sì. Insomma, ma non è così. Infatti ieri Berlusconi ha detto: io non sono d'accordo con Brunetta quasi su niente, poi se sia gioco delle parti o reale scontro si vedrà. Fatto sta che, secondo quello che scrive Repubblica, Maria Stella Gelmini è già in pole position per diventare nuovo rappresentante dei deputati forzisti, cioè il nuovo presidente dei deputati di Forza Italia, cioè sostituire proprio Brunetta in questo ruolo. Per quanto riguarda invece la vicenda di Cofferati, c'è un'intervista di Vendola su Repubblica che non andiamo a leggere perché non c'è molto tempo, però sostanzialmente è un invito: adesso Sergio venga con noi, insieme faremo un nuovo soggetto. Chissà quante volte abbiamo sentito parlare di un nuovo soggetto di sinistra. Leggiamo al volo: non sono sorpreso di questa scelta di Cofferati, percepisco il turbamento e il dolore con cui Sergio dà l'addio al suo partito dopo aver guardato negli occhi questa nuova creatura che è il PD di Renzi. Però Cofferati se ne va non per aver guardato negli occhi la creatura di Renzi, con la quale si è candidata all'Europarlamento e anche alle primarie del PD in Liguria, ma se ne va perché contesta il risultato delle primarie in Liguria. Non c'è, contrariamente a quello che dice Vendola, al momento non c'è uno scontro politico di sostanza, a meno che sia comprensibile agli elettori da parte di Cofferati nei confronti del PD. C'è anche un'intervista di Alfano, abbastanza interessante, sulla questione del Quirinale, e Alfano dice una cosa a mio avviso sensata: Matteo può fare le riforme anche grazie a noi, al Quirinale starebbe bene un uomo del centrodestra. Sta dicendo che Renzi e il suo partito col 40% non dovrebbero indicare un candidato ma concordarlo con voi altri, dice Alfano, risponde: sto facendo un ragionamento diverso, invitiamo a guardare agli ultimi decenni di storia repubblicana in cui una forza del 40% come la DC ha avuto la lungimiranza di fare eleggere con i propri voti figure di altissimo spessore quali un liberale come Einaudi, che democristiano non era, giustamente, dice, lo ricorda Alfano, un grande socialista come Pertini, che pure democristiano non era, ricordiamo ancora una volta, e poi un fondatore della socialdemocrazia come Saragat. È un metodo, a mio avviso, giusto. Il PD è maggioritario ma non ama la maggioranza, e eleggere un presidente della Repubblica espressione direttamente del Partito Democratico, a mio avviso, sarebbe un errore, ma sicuramente sarebbe, al di là di quello che ne penso io, che non conta nulla, sarebbe vissuto male probabilmente da una parte degli italiani, soprattutto dopo aver avuto Napolitano, che da quella stessa cultura politica proviene, è una figura istituzionale quella del Presidente della Repubblica, quindi diciamo deve essere di garanzia, no? Titoli ancora di qualche giornale al volo: Il Manifesto sceglie un gioco di parole, Coffee Break, con la foto di Sergio Cofferati. Poi Il Giornale invece scrive: il segreto delle due ragazze, altro che solidarietà, Greta e Vanessa smascherate da una telefonata, portavano in Siria il kit di sopravvivenza per l'ISIS. Attenzione, perché portavano il kit per l'esercito, l'abbiamo letto prima, anti-Assad, che è sostenuto dagli occidentali. Poi però si è scoperto nel frattempo, ma lo ha detto lo stesso Obama, abbiamo sbagliato qualcosa, che tra gli anti-Assad c'era anche l'ISIS. Però questo, diciamo, svista l'avranno fatta Greta e Vanessa, ma l'aveva fatta anche Obama, quindi diciamo, se no si attribuiscono delle responsabilità che non ci sono. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo e continuiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ed è il momento di andare a curiosare tra le pagine dell'Inserto Culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroviamo Armando Massarenti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Cioè, a questo punto potrei anche dirti buon anno, perché io e te in questa versione non ci sentiamo dall'anno scorso, o sbaglio? forse hai ragione, perché ma forse una volta ci siamo visti. No, perché ci siamo visti e te ci siamo visti, però domenica scorsa non ci siamo sentiti, la domenica prima c'era Federico Taddia al mio posto, e quindi carissimo Armando, allora oggi riprendiamo appunto questi i nostri appuntamenti della domenica e il titolo del domenicale di oggi è quanto mai attuale: Gandhi per i liberal democratici. Io non vado oltre perché qua si entra nel groviglio tra religioni, politica, democrazia e pensiero. Sì, qui abbiamo un filosofo importante, il filosofo italiano Sebastiano Maffettone, che ha organizzato un workshop in India di teorie politiche e di filosofia politica, dove ha proprio messo a confronto studiosi un po' di tutto il mondo, e quindi mettendo a confronto questa nostra idea di liberal democrazia con altre filosofie di stampo orientale. E insomma, è un pezzo molto interessante, anche molto attuale per le vicende note, insomma, che tutte le reazioni che ci sono state agli attentati terroristici di settimana scorsa. Dico soltanto che non è facilissimo fare un confronto tra filosofie di questo genere così diverse. Diciamo che Maffettone arriva a dire che in fondo alcuni difetti, senza voler esagerare sui nostri difetti e delle nostre liberal democrazie, che restano sempre, comunque, come diceva Churchill, la democrazia è il peggiore dei sistemi possibili, esclusi tutti gli altri, e comunque alcuni correttivi possono essere dati proprio dalla filosofia di Gandhi, che è una filosofia che dovremmo approfondire proprio per la sua capacità di dare un vigore etico maggiore contro le nostre liberal democrazie. Ma sai, questo è un tema poi che ricorre anche in altre pagine di questo numero della domenica. Io ho fatto un pezzetto ricordando, intanto giocando su Gesù, Charlie, che abbiamo sentito tante volte in queste settimane. Io proporrei invece un Gesù Erasmo, cioè sono Erasmo da Rotterdam, perché era il pensatore che Ralph Dahrendorf, proprio riflettendo nel dopo 11 settembre 2001, aveva preso come esempio di pensatore che non perde la bussola anche e mantiene certe virtù liberali, come lui le definisce, anche quando intorno a lui sembra che un pochino queste vacillino. E allora aveva scritto questo libro molto bello in cui richiamava l'insegnamento dei filosofi liberali del Novecento, che erano, si chiamava così questo libro, Erasmiani, gli intellettuali alla prova del totalitarismo. E questi intellettuali erano Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron, il nostro Norberto Bobbio, Hannah Arendt, George Orwell, cioè tutti quegli intellettuali che di fronte ai vari totalitarismi, fascismo, nazionalsocialismo, comunismo realizzato, avevano mantenuto salde quelle virtù liberali. Perché dico questo? Perché è attuale questo libro di Dahrendorf? Perché finiva con il fatto che i nostri valori liberal-democratici vengono messi a repentaglio non tanto dalla jihad e da questi attacchi terroristici, che lui definiva come delle dolorose punture di spillo, ecco, non una guerra tra sistemi del mondo, eccetera, eccetera, ma appunto dolorose punture di spillo, cioè qualcosa di forse molto piccolo e molto ben inquadrabile all'interno invece di qualcosa di molto più grande, che è la resistenza che hanno le nostre liberal democrazie, e vedeva dei nemici interni invece ai nostri valori liberal democratici contro cui appunto resistere. Sono le tentazioni fondamentalistiche che si trovano nelle nostre stesse religioni in Occidente, che hanno messo in giro insomma una cultura di tipo controilluministico, così la chiama appunto Dahrendorf, ed è da questo humus culturale, molto spesso quando si reagisce a situazioni estreme come queste, si fa il gioco dei fondamentalisti, proprio andando a indebolire invece la nostra tradizione illuministica, la nostra tradizione dei lumi. Ecco, l'ho fatta un po' lunga, ma insomma, perché questo è un tema che ricorre in varie pagine. Ovviamente poi ci sono tante altre cose che più letterarie, ma devo dire che anche quando si va sulla letteratura, per esempio c'è una recensione di McEwan, anche qui si va sul terreno della nostra capacità di capire il nostro mondo e di ragionare con saggezza su una serie di questioni morali e politiche. Nel caso di McEwan, la ballata di Adam Harry è proprio un libro dove sembra mettere in atto una sorta di filosofia del diritto, in particolare trattando dei casi di bioetica con grandissima saggezza. Poi abbiamo un epistolario molto bello di cui tratta Gabriele Pedulla, De Roberto, che nelle sue lettere a Ernesto Valle diciamo che ricostruisce un linguaggio dell'amore, dell'eros, molto interessante per la nostra letteratura. Poi abbiamo un bellissimo Elzeviro di Gilberto Corbellini in cui spiega perché la forte esposizione dei nostri ragazzi da un lato ai videogiochi o a una serie, il fatto che siano nativi digitali, ecco, che siano nati in un'epoca in cui non è il libro il principale mezzo di lettura e di acquisizione di conoscenze, e poi anche che invece abbiano letto così avidamente Harry Potter, ecco, si chiede Corbellini se questo danneggi o no la nostra capacità di essere razionali e anche magari di avere un atteggiamento scientifico verso la realtà, e dice che insomma anche questi maghetti all'Harry Potter in realtà non danneggiano affatto, anzi mettono in moto delle forme di immaginazione che non sono affatto in contrasto con la razionalità economica. Mi voglio collegare con un altro articolo del Domenicale di oggi che mi ha incuriosito: non basta un videogioco, attenzione ai prodotti di Brain Train, ecco. Venduti come un toccasana per la mente, sono solo specchietti per le allodole, il titolo è degrado cognitivo. Armando, noi ci dobbiamo salutare perché siamo in chiusura, abbiamo il giornale radio. Questa era un'ultima segnalazione che mi aveva incuriosito, grazie per essere stato con noi anche oggi, buona domenica, ci ritroviamo domenica prossima. Grazie. Con il curatore responsabile, il direttore del Domenicale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Ben ritrovati con Si può fare. 800 24 00 24, cominciate da subito a chiamarci, prenotare il vostro intervento per commentare le nostre buone notizie, i fatti, tutto, e cos'altro, Gabardini? Beh, poi più avanti per il gioco, ovviamente, che dopo spiegheremo. Dopo spiegheremo, gioco, personaggio della settimana, e daremo il primo indizio. Esatto, allora, come ho annunciato ieri, ecco, come sì, ti ho detto ieri, c'è un minimo di suspense a questo punto. Esatto, sono stato al convegno Difendere la famiglia per difendere la comunità, ma non mi hanno fatto entrare. Diciamo che mi sono presentato 2 ore prima dell'inizio, era l'1 più o meno, ma mi hanno detto che bisognava iscriversi. Cioè, mi arrivi in ritardo solo a Radio 24, lì 2 ore in due anticipo. 2 ore in anticipo, esatto. Nonostante nessuno lo sapesse che bisognasse iscriversi, nemmeno le persone che erano lì presenti sapevano questa cosa, mi hanno detto che bisognava iscriversi. Ho detto che venivo per Radio 24, però mi hanno detto torna alle 14:30 e vediamo che cosa si può fare. Sono tornato, c'era una coda, ammetto, veramente molto lunga. Mi sono messo in coda come tutti, in mezzo a persone che potevano essere, diciamo, i miei genitori, con idee diverse dalle mie sicuramente, ma tutto sommato ragionevoli. Ho anche scherzato, e mi sembrava anche doveroso scherzare, che ce ne fosse molto bisogno perché c'era tantissima polizia. Comunque la fila non si muoveva, mi hanno detto i giornalisti devono andare in un altro punto, quindi mi sono presentato a questo punto e di nuovo mi hanno detto che se non sono accreditato non posso entrare. In realtà però vedevo altri giornalisti che entravano tranquillamente, poi ho parlato con giornalisti dell'Huffington Post che mi hanno detto ma non ha senso questa cosa, che bisogna accreditarsi. Poi mi si è avvicinata una ragazza che insieme a 3 della sicurezza, insomma, diciamo, mi ha detto che me l'hanno riconosciuto e che mi hanno chiesto se intendevo fare polemica all'interno. Io gli ho detto assolutamente no, che ero lì per Si può fare di Radio 24, ma loro mi hanno detto comunque che io non sarei potuto entrare perché non ero accreditato e quindi sono rimasto fuori. C'era, devo dire, un dispiegamento di forze dell'ordine spaventoso che non vedevo dai tempi del G8, se posso dire. 3 cordoni di carabinieri e polizia, tutta Melchiorre Gioia bloccata, onestamente io non ho neanche ben capito la ragione, perché la manifestazione per i diritti LGBT, che era a 200 metri dal convegno in un parcheggio anche piuttosto triste, era tranquillissima, non è successo assolutamente nulla in manifestazione. I più pericolosi, diciamo, che avevano in testa degli scolapasta e si facevano le foto che poi taggavano con l'hashtag tagliatelle in piedi. Ecco, diciamo che l'insulto peggiore che è stato urlato è stato tagliatelle al posto di sentinelle. Però la cosa interessante è che all'interno del convegno, verso la fine, un ragazzo ha chiesto di poter fare una domanda. È stato accolto da fischi, urla, ma lui non si è perso d'animo, ha raggiunto il palco e ci ha provato. Si chiama Angelo Antinoro, studente di 22 anni, che è stato molto coraggioso, ha provato, diciamo, a costruire un ponte, un dialogo. Ha esordito con: sono cristiano e per questo non sono fuori a protestare, però non l'hanno lasciato parlare. Quando ha detto: sono qui a esercitare un mio diritto democratico, lo stesso relatore, il signor Amicone, organizzatore del convegno e direttore di tempi, gli ha detto: no, tu sei qui a rompere le palle, aizzando l'assemblea. Ciò nonostante, diciamo, nonostante le urla oscene che l'intera assemblea gli rivolgeva, diciamo, la parola più carina che gli hanno urlato questo ragazzo è stato frocio. Il ragazzo ha chiesto chi dei presenti avesse dei figli, poi ha detto a loro: nessuno di voi può sapere se i propri figli sono eterosessuali oppure omosessuali. Poi, mentre stava cercando di dire che le teorie riparative sono considerate dall'intera comunità scientifica una follia che non esiste, a quel punto l'hanno zittito, gli hanno spento il microfono. Si sente lo stesso Amicone che intima: portatelo via. E Angelo viene trascinato fuori di peso da quattro persone mentre cerca di finire la frase. Ora, io quello che voglio dire è che questa famiglia cosiddetta tradizionale, dalla quale proveniamo tutti, provengo anch'io, perché ha così tanta paura di confrontarsi? Cioè, come può pensare che la creazione di altri tipi di famiglia possono in qualsiasi modo disturbare la loro? Io penso, Alessio, te lo dico seriamente, che dobbiamo parlarci. Cioè, non ha senso questa segregazione, questa separazione, perché al chiuso dei convegni blindati crescono le paure, maturano gli odi e false differenze che vengono create si alimentano antichi terrori che possono semplicemente esplodere. Cioè, penso che veramente, avendo parlato con queste persone che erano al convegno, penso che chiunque dei presenti al convegno, preso singolarmente, se io ci potessi parlare, non potrebbe non comprendere che anche io ho semplicemente il desiderio di creare una famiglia e sono convinto che starebbe dalla mia parte. Ed è per questo motivo, perché sanno che ci metteremo pacificamente d'accordo, infatti dobbiamo parlarci, è per questo motivo che qualcuno, con estrema precisione e una ferocia colpevole, ne sta facendo una battaglia ideologica, scomodando i valori con l'intenzione di seminare il panico e l'odio. E tutto questo, oltre che molto molto doloroso, è molto pericoloso. Eccoci qua, 800 24 00 24. A questo punto un pezzo accorato di Carlo Gabardini. Scusami, sul ma... convegno, no, io però una cosa non ho capito alla fine, sì. Perché è stato detto: no, ma non è un convegno omofobo, a parte tutto quello che ci hai raccontato che lo dimostra abbastanza o in parte, a seconda di come uno la voglia vedere. C'era la famosa associazione CER, che sul suo sito scrive che i gay hanno bisogno di essere curati, che questa è una follia assoluta, sì, ecco. C'era questa associazione, sì, quindi poi... una volta per tutte diciamo che omofobo o non omofobo, c'era un'associazione che è omofoba, ecco, questo. Su questo non e c'era dubbio. Il logo dell'Expo e c'era il logo dell'Expo, e ricordiamo anche una cosa, che il presidente del BIE, che dà in concessione Expo ogni anno, ha detto che il logo dell'Expo non avrebbe dovuto essere concesso per un convegno, tra l'altro su un tema che ha poco a che vedere, credo, con l'Expo, la famiglia quantomeno. Sì, Maroni in realtà ha detto che durante Expo ci sarà un altro convegno sulla famiglia e che Expo è nutrire il pianeta e quindi nutrirlo anche con i nostri valori. Ma in realtà io veramente, la cosa alla quale tengo non è la questione di fare o non fare il convegno, è il fatto che dobbiamo parlarci. A me la cosa che mi ha veramente addolorato è il fatto che noi fossimo fuori a manifestare e loro fossero arroccati all'interno, quando io penso che invece questo problema qua sia veramente una follia collettiva. E la domanda che ha fatto il ragazzo, che può sembrare ingenua, invece secondo me era molto giusta, perché il fatto di chiedere voi non sapete se i vostri figli sono omosessuali o meno è molto vero, nel senso che una famiglia che poteva essere lì a quel convegno, nel momento che scopre che il proprio figlio invece è omosessuale, la maggior parte delle volte, per fortuna, si sposta dal proprio arroccamento, la propria idea, e comprende che il proprio figlio ha tutti i diritti di mettere su anche lui una famiglia. È semplicemente, non so come dire, è l'arroccamento di quelli che sperano che i propri figli non siano omosessuali, e allora possono arroccarsi in questa cosa, perché appena invece hai un parente, un cugino che lo è, comprendi che anche lui ha semplicemente voglia di poter amare la persona che ama. 800 24 0024. Tra poco parleremo però anche di un altro argomento, questo naturalmente diventa argomento della puntata per i vostri commenti, cari ascoltatori, rispetto a quello che è stato il convegno, quello che il racconto che ce n'hai fatto tu, Carlo. Tra poco parleremo invece di scuola e religione, un altro argomento caldo, perché c'è una proposta che può sembrare peregrina, minoritaria, poco interessante, ma in un momento in cui si alzano muri anche in questo caso, e avete visto quello che è successo ieri in Niger, le proteste nel mondo islamico in alcuni casi diventano azioni violente, c'è chi propone di insegnare la storia delle religioni nelle nostre scuole, insomma un modo appunto per venirsi incontro, per parlare, per confrontarsi. Potrà sembrare una proposta inutile in questo momento, invece noi vogliamo capire di che cosa si tratta. No, non tra mi pochissimo, sembra per niente una proposta inutile. Però dobbiamo dare anche l'indizio, lo devo dare io, perché state assolutamente state. Il personaggio della settimana che andiamo cercando quest'oggi, e se lo indovinate vi portate a casa biglietti e catalogo della mostra di Chagall a Milano, è un personaggio, diciamo così, femminile. Iniziamo così, 800 24 00 24, vai. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, o si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io. Questa splendida canzone Sotto casa di Max Gazzè, che anche nel video si vede, insomma si capisce di cosa sta parlando, no? Sembra un po' quelli che ti vengono a bussare a casa per proporti la religione di turno. Ma al di là di questo, ci sembrava una colonna sonora adatta per parlare di questo. La proposta è di Francesca Campana Comparini, buongiorno, l'abbiamo convocata. Buongiorno a lei. Che, buongiorno a lei. Tra l'altro possiamo dirlo, si trova in questo momento a Gerusalemme. Sì, esattamente. Quindi proprio nel cuore delle religioni. Nel cuore delle religioni. Fantastico. Sono in un taxi in direzione di Abu Ghosh, quindi è perfetto. È perfetto per l'abbiamo parlare mandata di religione. Lì apposta per poterla intervistare da Gerusalemme. Quale miglior posto per parlare di storia delle religioni? Dunque, ha ragione. Francesca Campana Comparini è organizzatrice, tra l'altro, del Festival delle Religioni e ha lanciato questa proposta che a noi è sembrata, insomma, interessante: insegnare storia delle religioni nelle nostre scuole. Perché lei propone questo, Francesca? Ecco, vede, ha detto bene, non religione ma storia delle religioni. Come dire, noi oggi viviamo in un mondo che è diviso in due parti. Da un lato abbiamo un Medio Oriente estremista, per fortuna solo una parte, per fortuna, che ha, come dire, quasi un eccesso di identità al punto tale da ammazzare per dimostrarla, come è successo a Parigi, come succede purtroppo, ahimè, in altri luoghi del mondo. Dall'altro invece abbiamo un Occidente che sembra abbia, come dire, smarrito la propria cultura, smarrito la propria identità, al punto tale che il crocifisso, ad esempio, come dire, viene appannato, perché non viene ritenuto, viene ritenuto soltanto, come dire, un simbolo di fede e non della nostra storia, della nostra cultura. Credo che sia arrivato il momento opportuno di inserire storia delle religioni non come ora facoltativa ma obbligatoria, per essere al passo con i tempi e soprattutto per, come dire, entrare meglio in questo mondo e allo stesso tempo di come dire, essere attuali e preparati per comprendere quello che oggi avviene. Potrebbe essere un modo anche, per esempio, per chi per chi non professa alcuna religione, per esempio è ateo, no? Oppure per chi non è cattolico, per avere l'opportunità di vedere rappresentata o la propria religione anche all'interno della scuola, o diciamo un approccio laico alle religioni, perché insomma mettiamoci anche nei panni, adesso si parla molto del confronto tra Islam e religione cristiana, giudaico-cristiana, qualcuno parla addirittura di una guerra di civiltà. Io non credo che sia questo, ma anche se uno volesse credere questo, non bisogna dimenticarsi che c'è una parte degli italiani, non so quanti siano, che non professano queste religioni, però possono essere interessati invece ad un approccio come questo, no? Di conoscenza. Assolutamente, è un senz'altro, è un'ora di conoscenza, non è un'ora né di indottrinamento né di catechismo, dovrebbe essere un'ora di conoscenza, proprio come si studia la storia, la geografia, l'inglese, la matematica, così credo che sia opportuno studiare storia delle religioni. Mi sembra molto giusto, anche perché, come giustamente ricordava Alessio, c'è anche chi è ateo, ma c'è anche chi non vuole magari fare lo storico nella sua vita, ma giustamente deve studiare storia quando è ragazzino. E quindi le dico questa cosa perché io sono lo stupido dei due, ma avendo fatto la scuola tedesca, in pratica la scuola tedesca era così, nel senso che religione in realtà è storia delle religioni, perché nel momento che ci si ritrova in una classe in cui ci sono sia cattolici sia protestanti, non è che si può fare catechismo. E quindi condivido, e tra l'altro condivido molto che l'IRC debba essere aggiornato, non dal punto di vista degli insegnanti, che a mio avviso hanno un'ottima preparazione, quanto proprio riuscire a renderlo uno studio totalmente, a mio avviso, regolato dallo Stato, e lo dico da cristiana, lo dico assolutamente da cristiana. E quindi l'obbligatorietà dell'ora di storia delle religioni, a mio avviso, diventa fondamentale. Senta, per vivere nel 2014. Lei appunto è organizzatrice tra l'altro di un festival, il Festival delle Religioni, che ci sarà nei prossimi mesi, se vuole lanciare anche questo appuntamento, però nel frattempo le chiedo, ha avuto qualche riscontro rispetto a questa proposta, diciamo, non dico il ministro, ma insomma nel mondo della scuola c'è un dibattito, c'è una possibilità che questa cosa diventi realtà, secondo lei? Non lo so questo. So che a breve si parlerà della riforma della scuola, però sì. Io non mi occupo di eventi culturali, come lei sa, e quindi non ho legami. E cosa ci sarà al Festival delle Religioni? Cosa si troverà? Se vuole, su questo faremo un'altra intervista più avanti. Adesso ancora so che non glielo posso anticipare, però le posso solo dire sì. Che sarà a metà maggio. Magari più avanti parleremo insieme ancora, se vorrete, delle date, degli argomenti. Sono qui a Gerusalemme per organizzare un evento importante. Va bene. Grazie. Allora, Francesca Campana Comparini, che ha appuntamento, sta scappando via, è a Gerusalemme, sta tessendo evidentemente relazioni per fare questo Festival delle Religioni. È un avvenimento interessante, quantomeno, e secondo me di stretta attualità in un momento del genere. Per cui sicuramente vi informeremo su questo. Cari ascoltatori, nel frattempo all'800 24 0024, cosa ne pensate di questa proposta, inserire l'insegnamento di storia delle religioni come ora proprio prevista, non facoltativa, come ora obbligatoria, all'interno insomma dei percorsi scolastici, che non credo volesse dire la signora vada a sostituire l'ora di religione, o meglio potrebbe essere anche questa una proposta che c'è stata in passato, però insomma la proposta è: parliamo della storia delle religioni nelle nostre scuole. Cosa ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 00 24. E lo sai che a proposito della scuola c'è un'altra notizia che non c'entra un tubo con le religioni, ma che viene dalla Finlandia e che è curiosa. Per dire, no, quali sono le nuove frontiere della scuola? Imparare a scrivere in Finlandia, a scrivere a mano, non sarà più obbligatorio. Cioè, questa settimana in Finlandia hanno deciso che vanno dietro alle nuove tecnologie, al fatto che i bambini nativi digitali utilizzano computer, iPad, eccetera, e quindi scrivere a mano, imparare a scrivere a mano per loro in Finlandia non è più una materia obbligatoria della scuola, cioè che è una crolla follia. Uno dei pilastri è una assoluto. Follia, vorrei dire ai finlandesi che per esempio io oggi sono arrivato in radio, mi ero segnato le due cose, ma siccome non sono riuscito a stampare mi sono dovuto scrivere delle cose su un foglietto a mano, diciamo che ci sono a volte poi casi in cui saper perlomeno scrivere. Beh, in effetti se non via la corrente come esatto. fai, non puoi più neanche fare esatto. E poi cosa fai, la lista della spesa la fai sul tablet, non so, oppure vai, lasci un post-it alla tua fidanzata fidanzata e glielo lasci, come fai? Non puoi... no, ma ci sarà un'app che si chiama Post-it ed è invia un Post-it al frigorifero della tua fidanzata. Probabilmente sarà così. 800 24 0024. Ci fermiamo tra un attimo, torniamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 0024, di nuovo in diretta con Si può fare. Abbiamo Donata che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Prego, lei su cosa voleva intervenire, Donata? Senta, dunque, io ho ascoltato l'intervento della signora che mi ha preceduto. Sì. Che proponeva l'insegnamento della storia delle religioni nelle scuole. Sì. Ecco, volevo proporre questa riflessione. E dunque, sarebbe un insegnamento che verrebbe in qualche modo ad aggiungersi al curriculum scolastico. Io diciamo sono perplessa su questo punto, perché non vorrei che poi la storia delle religioni venisse a sostituire l'odierna ora di religione. Siccome conosco la scuola, ho lavorato tanti anni nella scuola e so che l'ora di religione è veramente la cenerentola nel tempo, è diventata sempre più la cenerentola delle ore. Ritengo che comunque noi cosa dobbiamo vuol dire, scusi, Donata, la cenerentola delle ore? In che senso? Delle ore, l'ora di religione è sempre stata collocata alla fine delle ore curricolari e molti scappano e se ne vanno a casa, diciamo. Molti vanno possiamo a casa, dirlo. Molti chiedono l'esonero, la religione esatto. Non interessa. Gran parte degli allievi la vive come un'ora puramente così sì. Ma forse Daniela è anche perché alla fine scusi Donata è anche perché il voto non entra in qualche modo, no, nel computo perché non c'è votazione, è un'ora diciamo che viene vissuta da alcuni anche come ora di dottrina, ora di catechismo, evidentemente non interessa del tutto. La proposta di fare storia delle religioni all'interno del percorso scolastico, al di là poi dell'ora di religione o meno, sulla quale almeno io personalmente non volevo neanche aprire un dibattito stamattina, però mi sembra interessante proprio perché, come dire, prendiamo sul serio questa questione, è una cosa importante che riguarda la sensibilità di ognuno e quindi diciamo entriamoci con tutte e due le gambe. Però il suo timore, Donata, è che scavalchi, diciamo, e sostituisca l'ora di religione. Questa è anche una possibilità. C'è molta ignoranza sulla nostra religione, la religione cattolica, il cristianesimo in generale e la religione cattolica. Moltissimi non conoscono neanche le basi, i presupposti della nostra religione. Ritengo che comunque non dovrebbe succedere una cosa di questo genere. Se l'ora di religione, la storia delle religioni si inserisce nel curriculum della lezione di storia, del curriculum di storia, è una cosa che è positiva, ma se invece viene a sostituire l'ora di religione meno, che non sia una cosa positiva. Però se posso solamente aggiungere una cosa, nel senso che capisco bene la sua preoccupazione, però siccome già, come dice lei, è la cenerentola delle ore, io penso che se fosse obbligatoria lo studio della storia delle religioni, fra cui ovviamente anche quella cattolica, e ci mancherebbe altro essendo noi in Italia, poi magari uno la propria religione, quella che sceglie, quella che è la sua fede, magari va a fare catechismo, va in chiesa, può anche andare in un altro luogo, o comunque anche a scuola, come sta dicendo lei. Non dico che debba essere a sostituzione, però io penso che partire da una base che siamo in un mondo più globale, quindi le religioni sono diverse, si parte per conoscerle tutte e poi ognuno, diciamo, si fa il corso di specializzazione anche in un altro luogo. È bella questa del corso di specializzazione, mi piace. Grazie Donata, comunque la sua perplessità l'abbiamo raccolta. 800 24 00 24, vediamo via facendo la trasmissione quali altri commenti a questa proposta raccoglieremo. Adesso c'è Daniela che ci chiama da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo partecipare per il gioco, anche se l'indizio è molto vago. Sì. Però ci provo. Beh, abbiamo dato una scrematura, una prima scrematura. Personaggio femminile. Sì. Io ci provo. Io andrei su Emma Bonino con il suo annuncio della malattia che l'ha. Sì. Beh, insomma, la notizia è stata molto forte e in effetti Emma Bonino sicuramente è un personaggio di questa settimana. È uno di quei casi, Daniela, in cui in effetti cioè, la risposta è quasi supera il personaggio che avevamo pensato noi, che però non era. Non è Emma Bonino, anche se avevamo pensato anche a lei, sì. Ma insomma, in questo momento ci sembrava giusto lasciarla stare in un momento in cui si sta occupando di curarsi il suo male. Comunque, grazie Daniela, 800 24 00 24, cioè prima della chiusura di quest'ora daremo anche un altro indizio, forse, se, certo. Se vogliamo essere buoni, se no per ora state a ma questo. Ma noi siamo buonissimi. Personaggio femminile. Adesso, cosa succede? Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Boom, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Allora, la notizia di ieri sono le dimissioni di Sergio Cofferati dal dimissioni, l'addio al Partito Democratico, non le dimissioni da europarlamentare, l'addio al PD, in polemica sui con i risultati sulle primarie del PD nella regione Liguria, per cui lui si era candidato. Polemiche, insomma, lui ha perso queste primarie, lo sapete tutti, polemiche che sono nate, c'è anche un'inchiesta della magistratura perché il PD ha annullato circa 4.000 voti in 13 seggi, perché ci sarebbero stati esponenti palesemente di centrodestra che sono andati a votare, iscritti all'ultimo minuto al PD, e anche fiumi correnti, masse di cittadini stranieri sospetti. Su questo ultimo aspetto è intervenuto dicendo tranquilli, non c'è niente di strano, ho reclutato io gli extracomunitari in massa per votare alle primarie in Liguria. Il signor Franco Costantino, che è in diretta con noi, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto buona domenica a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, buongiorno. Franco Costantino, che è un esponente del volontariato ligure, molto conosciuto, è anche responsabile nazionale per la ICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, le politiche sociali, e che appunto all'indomani di questa polemica sulle primarie ha detto: guardate, non c'è niente di straordinario, perché gli immigrati sono una risorsa politica, io con gli immigrati faccio tanti progetti e li ho contattati io, alcuni di questi, anche per fargli sapere che si votava per le primarie del PD. Non c'è niente di illecito, come non è illecito far votare alle primarie i minorenni che hanno più di 16 anni, e quindi di che vi stupite? Però, Costantino, il sospetto è che ci sia stato un mercato di voti, ecco perché poi le polemiche, Cofferati, l'inchiesta. A noi l'inchiesta, diciamo, non interessa, ci interessa, diciamo, anche un po' questo mondo, no? Degli immigrati che partecipano alla politica italiana. Ci racconti un po' come nasce il suo coinvolgimento? Lei che c'entra col PD? C'entra qualcosa? Beh, intanto mi perdoni, già chiedermi cosa c'entro nel PD è una domanda alla quale voglio rispondere immediatamente. Io col PD c'entro tanto quanto tutti quelli che si riconoscono oggi nell'area socialista europea hanno voluto, anche attraverso questo piccolo spazio che le primarie dedica ai cittadini, sentirmi coinvolto e dare il mio contributo per poter dare anche continuità a quelle politiche straordinarie sull'immigrazione che ha portato avanti in vari tavoli il nostro presidente Burlando e alcuni suoi assessori delegati, innanzitutto. Poi, cioè, io non riesco oggi veramente a capire qual è stato il problema e qual è stato lo scandalo. Cioè, innanzitutto io non ho portato maree di persone, io non ho coinvolto maree di persone, ma le stesse persone che nell'ultimo decennio, potrei dire, negli ultimi 15 anni hanno collaborato con me in varie situazioni, mi hanno chiesto rendiamoci visibili. E io credo che le primarie potevano, visto che appunto non escludono i cittadini extracomunitari presenti sul territorio, di farli emergere e quindi di dare un chiaro segnale che queste persone non sono più degli invisibili, anche perché purtroppo ho visto che c'è stata una strumentalizzazione sul colore della pelle o provenienza o addirittura appunto la lingua che si parlava. E, io guardi, le dico, sono 20 anni che sono impegnato nel mondo del volontariato, non sono responsabile nazionale alle politiche sociali, io sono responsabile di un'area delle politiche sociali, dell'AICS, che è un'associazione di promozione sociale, quindi noi promuoviamo lo sviluppo delle persone, sì, del disagio mentale. Sì. E credo però che ecco, Costantino, mi scusi, perché rispetto a quello, a quello che lei dice, il sospetto, ecco perché poi anche le polemiche, cioè che fra l'altro devo dire che i seggi che sono stati annullati, i voti che sono stati annullati, se non ho visto male, non, tra le cause di questo annullamento da parte della Commissione dei Garanti del PD non c'è quella di presenza di extracomunitari, per cui mi sembra anche perché è lecito, gli extracomunitari possono votare, ci infatti mancherebbe questo altro. Si era detto, però il sospetto è che ci sia stato, come dire, un reclutamento un po' all'ultimo minuto, già gente che era lontana dalla politica, lontana dal PD. A me sembra molto strano fare queste affermazioni, ma non da parte sua, ma da quello che emerso dai servizi di stampa, perché è da anni ormai che gli immigrati partecipano a varie iniziative. Queste persone, ad esempio, si parlava degli albanesi, parecchi albanesi di questi hanno la tessera firmata da Edi Rama, sono socialisti, ma mi hanno anche proposto ieri, dopo appunto le contestazioni che sono state rivolte nella mia persona per quello che riguarda il seggio di Villa Piana, di potersi anche far vedere in faccia, cioè scendiamo con le bandiere, non è un problema, come i nigeriani, come i domenicani. Io da 11 anni, cioè voglio dire, io per 11 anni sono stato con un'altra extracomunitaria, fidanzato e convivente, e non sto neanche a menzionare chi fosse o meno. Oggi da poco tempo che sono fidanzato con una donna dominicana, e una delle grosse perplessità della comunità dominicana con la quale negli ultimi tempi mi sto relazionando è stata quella di dirmi: ma noi proprio non ci pensa nessuno, ci sono solo gli albanesi e gli ecuadoregni qua a Savona, ci siamo anche noi, e come poter far vedere che ci siamo anche noi? Attraverso appunto la partecipazione alle primarie. Stessa cosa i nigeriani, mi hanno chiesto questa cosa, anche perché sono tutti pronti adesso anche a costituire una vera e propria associazione che li possa ancora meglio rappresentare sul territorio. Poi una cosa bruttissima, ecco, che mi si dice all'ultimo momento: certo, grazie al cielo mi sono mosso solo lunedì scorso, cioè prima delle elezioni primarie, perché oggi se no diversamente mi avrebbero allora arrestato, perché non saremmo stati più quei tanti, ci sarebbero stati solo extracomunitari al voto, perché un dato inquietante, quello che a me mi ha lasciato veramente perplesso, e che non era un mio vanto, e che rispetto ai voti, rispetto alla paita che io ho sostenuto, sì, e continuerò anche a sostenere, rispondeva al più del 9%. Allora io mi chiedo un attimo una cosa: siccome io non faccio più politica da parecchio tempo, cioè nel senso da luglio scorso mi sono anche dimesso dalla carica di segretario provinciale del Partito Socialista Italiano, proprio perché ero stanco di questo modo di procedere, di fare politica, perché tutti quanti dimenticano una cosa: che prima in Liguria la contrapposizione tra eventuali candidati alle primarie era tra la paita e la discesa in campo di un altro piano. Sì, sì, però non ci faccia entrare troppo nelle vicende, glielo chiedo per cortesia, del PD Ligure, perché sono note soprattutto e quasi soltanto, forse addirittura una parte dei Liguri, figuriamoci gli altri italiani che non ne sanno nulla. No, resti in linea con noi, perché dobbiamo fare una pausa per il traffico, se ci può dedicare ancora qualche minuto, ci fermiamo per 30 secondi, poi torniamo. Le voglio chiedere intanto se è vero che alcuni di questi albanesi, per esempio, hanno votato per la paita perché vedevano incofferati un simbolo di quel vecchio comunismo che loro, diciamo, il regime che hanno buttato giù in Albania. Poi che Gabardini vuole fare una domanda, resti con noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, ci sono un paio di tweet. Uno di Ugo Iezzi che ironicamente ci chiede sull'account di Si Può Fare, ma anche sul mio, ma c'erano anche gli svizzeri tra gli extracomunitari che hanno votato alle primarie del PD. Hanno avuto altri problemi gli svizzeri questa settimana con lo sganciamento del franco dall'euro. Poi c'è anche, non so se lo vedi anche tu Gabardini, Michele Solari che dice 550 votanti immigrati su 54.000 come fanno ad influenzare le primarie? Sono molto pochi. Ma tra l'altro non c'è nessun problema di influenzamento, sì. Nel senso che non è che gli immigrati non possano votare, su questo non abbiamo il minimo dubbio, insomma. Siamo in linea con Franco Costantino, dell'AICS, ma esponente del volontariato e del mondo, come possiamo dire, anche dell'impegno politico in Liguria, insomma, che ci sta raccontando come e perché anche sì, truppe di immigrati hanno partecipato, anche se lui non ama questa espressione, al voto per le primarie in Liguria. Ma è vero che erano solo 550, Costantino? Ma guardi, io, mi sembra di più. Ma a me sembra di più, ma io non voglio soffermarmi a questo, perché anche io le spiego le motivazioni che mi hanno indotto e spinto a promuovere, come dire, ripeto. Sì, però questo, no, aspetti, questo ce l'ha spiegato. Gabardini le vuole fare una domanda. Io le volevo chiedere una cosa, nel senso che lei ce l'ha spiegato molto bene, e io penso che nessuno possa avere una contrarietà sul fatto che gli immigrati o gli extracomunitari votino alle primarie. Io ne sono felicissimo, il PD ha deciso così e va benissimo così. La questione è che pare che diversi, lo si dice degli immigrati semplicemente perché forse non avevano capito esattamente come funzionava, sono andati a votare, hanno votato e appena finito di votare hanno detto bene, io ho votato, dove sono i soldi? Questa è stata la questione, cioè la questione è se alcuni, diciamo, presi anche per ignoranza della lingua, sono stati pagati per votare alle primarie o no. Ma guardi, io non sono un'agenzia di reclutamento e noi non paghiamo nessuno. Noi ci siamo mossi perché vorremmo che alle prossime primarie per le elezioni del candidato sindaco al comune di Savona, e questo rivolgo proprio la preghiera a tutti gli schieramenti, sia quelli del centrodestra che del centrosinistra, di prevedere, qualora appunto venisse eletto uno o l'altro, di modificare lo statuto regolamento comunale al fine di introdurre la figura del consigliere comunale aggiunto, che darebbe. Sì, ma in alcune città c'è, in alcune città c'è. Però scusi, la domanda è questa, cioè, lei, che lei sappia, è possibile che qualcuno di questi immigrati, anche per le sue condizioni, diciamo, di debolezza economica, no, di, sia stato, diciamo, attirato con questo tranello da qualcuno? Ma guardi, quel qualcuno magari dovrà essere individuato, ma non nella mia persona, anche perché. Ma noi non diciamo che sia stato lei, ci mancherebbe. No, cioè, ma guardi, io credo di sì, ma perché queste personate sono già venute da altre parti, quindi non è che adesso mi scandalizzo. Quindi secondo lei è possibile? No, mi scandalizzo, è possibile. Beh, io mi scandalizzo invece, mi scusi. No, ma sa perché non mi scandalizzo? Perché non è la prima volta. Ma questo non è un buon motivo, non è un buon motivo per non scandalizzarsi. Bene, no, ma io mi indigno, che è una cosa ben diversa. Ah, vabbè, allora siamo sull'italiano, va bene. Io sono indignato, che è una cosa completamente diversa. Credo che solamente alcune persone, ma non certamente i miei amici, siano stati spinti con risorse economiche occulte a votare. E quindi dice certamente, questa cosa è avvenuta certamente. Beh, questo l'hanno detto sui giornali, quindi non credo che era rivolta alla mia persona. Se qualcuno dopo il voto ha chiesto di aver istituito i 2 euro e quello è passo sui giornali, vuol dire che qualcuno dell'area del Partito Democratico o del centrodestra che ha partecipato al voto ha sicuramente. Senta, ma perché gli immigrati vanno a votare alle primarie e va bene, perché il PD ha questo regolamento, però non votano alle extracomunitarie, non votano alle amministrative, non votano per niente. Lei invece sarebbe per estendere il diritto di voto almeno alle amministrative? Sì, ma per un fatto ben chiaro, ma tutte quelle persone che hanno la carta di soggiorno e non un permesso di soggiorno temporaneo. La carta di soggiorno è un permesso illimitato e nel momento in cui diventa illimitata la presenza sul territorio di quest'ultimo, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio, andando a lavorare, pagando le tasse, pagando il mutuo, l'affitto, la TARSU e quant'altro, credo che sarebbe anche giusto. Ma poi mi perdoni, forse qualcuno si scorda che anche a Savona, ad esempio, c'è una grande comunità di rumeni. I rumeni, ormai appartenendo al mercato comune europeo, hanno il diritto proprio di legge di poter partecipare alle consultazioni. Magari il problema è che dovremmo mettere dei traduttori ufficiali come dire, legittimati nei seggi per capire appunto chi è andato a votare, ma comunque io credo che ci siano gli elenchi, perché gli elenchi avendo ma questo era un argomento all'ordine del giorno un po' di tempo fa, per esempio uno che lo sosteneva era stato Fini nell'ambito del centrodestra. Sappiamo che il PD sul fronte, diciamo, dell'estensione dei diritti spinge abbastanza, però Renzi su questo cosa ha detto? Fini mi ricorda la legge Bossi-Fini che dovremmo rivedere completamente, sì. Quindi forse non credo che... No, ma sul tema del voto, sul tema, diciamo, sul l'apertura tema del voto degli immigrati, il PD secondo lei è pronto per fare una legge? Ma io credo che il PD in questo momento è più pronto a litigare al proprio interno per riuscire poi in qualche modo, come dire, a mettere i propri uomini su determinate poltrone. Il problema è che quelle poltrone, come del resto, dovrebbero rappresentare la democrazia e quindi automaticamente il potere del popolo nell'espressione del voto è un po' esclusa, anche perché poi i politici si scordano il giorno dopo quando assumono l'incarico di quali sono realmente... Ma quando lei parla di poltrone, di litigi per poltrone, riferendosi per esempio a Cofferati, che ne pensa? Lui se n'è andato per questioni politiche o proprio per questioni di poltrone? No, io credo che lui ne ha già avute tante poltrone, quindi non credo che lui abbia questo problema oggi ancora di costruirsi un futuro. Io credo che forse è arrivato il momento che tante persone che fanno politica dai 40 a 40 anni di mettersi da parte, anche perché, mi perdoni, io non credo assolutamente più in questa classe dirigente politica, perché purtroppo è da 40 anni che ce la ritroviamo dietro, cioè nel senso... Costantino, mi devo fermare perché ho il giornale radio, io la ringrazio, noi la ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo. Fra l'altro, insomma, c'è un'inchiesta, credo che anche lui sarà sentito dai magistrati. Un attimo, Carmela, abbiamo ancora qualche secondo. 800 24 00 24, ci sentiamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. When the beat drops out and the people gone, we'll still be there for me, child. And when the lights go out and the morning come, we'll still be there for me, child. When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. Song will write to you, you don't write it. I didn't mean to fall in love. It was rhythm that created us. I was running, we collided. Baseline, I will always make time. I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. When the beat drops out, questa è Si può fare, anzi questo è When the Beat Drops Out, il nostro Si può fare in musica, canzone segnalataci dalla nostra ascoltatrice Flavia Quarto. Ricordiamo che potete segnalarci le vostre canzoni che considerate dei Si può fare, però appunto cantati, ai nostri account sui social, per esempio su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure all'account di Twitter @radio24, no, at Si può fare 24, oppure ai nostri account personali, il mio che è chiocciola Carlo Gabardini, il mio chiocciola Ale Maurizi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo. Il nostro personaggio della settimana è un personaggio femminile, abbiamo iniziato così, tra poco un altro indizio, ma dobbiamo dare assolutamente un altro indizio, sì, ma adesso sì. Ascoltiamo da Savona, buongiorno Massimiliano. Buongiorno. prego pronto, buongiorno, sono Massimiliano da Savona. Buongiorno. Guardi, Savona, zona incriminata per quanto riguarda le primarie del PD in Liguria, eh? Sì, assolutamente. assolutamente. Sì. Assolutamente, per me era da rifare. Comunque, non, forse non è questo luogo per discutere. Come no? No, beh, lo, abbiamo... è, lo è il luogo, lo è, il luogo è giusto. No, io l'avrei rifatto, assolutamente. Di fronte, se ammetti che c'è stato un errore, sì, nel sistema, il sistema va rivisto completamente, perciò va tutto rifatto. Nel punto e basta. Quando tu fai un impasto e un ingrediente non funziona, a quel punto lì l'impasto va male e si rifà l'impasto. Okay. Molto, l'equazione è molto semplice. C'è anche un'inchiesta, vedremo. Però è bella, è bella la teoria dell'impasto, mi piace. Lei su cosa vorrà intervenire, però, Massimiliano? Volevo intervenire sul personaggio femminile della settimana. Sì. Io ho pensato a Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, qual è la notizia legata a Oriana Fallaci di questa settimana? Il fatto che quello che è successo a Parigi, o che sta succedendo in Europa in questo ultimo periodo, legato col terrorista islamico, è un qualcosa che è stato preventivamente previsto da Oriana Fallaci nel suo famoso libro, che è stata tra l'altro ripubblicata in questi giorni, sì, dal Corriere più volte. Assolutamente, e la cosa oltretutto mi è saltata all'occhio perché lei, non so se lo sa, io compro il Secolo XIX, ha come inserto il sabato una copia di un settimanale, sì. E questo settimanale intitola, guarda, ce l'ho qua sott'occhio, intitola Oriana aveva ragione. Ho capito, però Massimiliano, Massimiliano, non era lei il personaggio che avevo pensato, grazie comunque, grazie per aver chiamato, grazie, diciamo, mille. Che comunque la notizia è la ripubblicazione di Oriana Fallaci, più che avesse ragione, sì, così se possiamo dire la nostra. Daniele da Roma, buongiorno. Vabbè, sì, ogni volta che si parla di questi argomenti ritorna il pensiero forte, netto, molto divisivo di Oriana Fallaci. Naturalmente il mondo si schiera pro e contro. È stata ripubblicata dal Corriere questa settimana, ci poteva anche stare, ma non era proprio lei, siamo molto lontani. Daniele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, io ho pensato alla Barbara Serracchiani. Come personaggio della settimana, Deborah Serracchiani, però, o Barbara, qualcun altro? Deborah. Il vice segretario del PD. Eravamo curiosi che magari ci fossero delle informazioni che non conoscevamo, tipo la sorella della Serracchiani. E quindi, No. Qual è la notizia? Sì. Ma dunque, l'indizio è una donna, naturalmente. Certo. Poi, via la canzone di Conte che ho sentito, è rivolta a Cofferati, che va via, e porte aperte da parte della Serracchiani, che dice che naturalmente non si può sempre vincere, non si può stare in un partito solo per... Sì, non ha fatto nulla per trattenerlo, va bene, però non era lui, non era lei il personaggio, Daniele, grazie. Grazie mille. Siamo anche in questo caso lontani, vogliamo dire, siamo nel mondo politico, diamo un altro indizio. L'altro indizio del nostro personaggio è un personaggio che tiene alta la bandiera del Made in Italy nel mondo. Quindi, cari ascoltatori, aguzzate un attimino l'ingegno, questo personaggio femminile cosa fa per tenere alta la bandiera del Made in Italy nel mondo? Qualcosa che si è saputo, insomma, questa settimana. Esatto. Quindi non dare troppi indizi, Alessio, sennò poi diventa troppo facile. Va bene. Andiamo con Bertilla, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Che bel nome che ha, signora. Lei si chiama Bertilla. Che bel nome che ha, mi scusi. Grazie, non me lo dicono in tanti. Invece è bellissimo, signora Bertilla. Prego. Grazie. Io volevo intervenire a proposito dell'inserimento della storia di religioni, delle religioni, sì, a scuola. Sì. Secondo me non ci dovrebbe essere né quello né le attuali 2 ore di religione vera e propria che fanno durante l'orario scolastico. Nel senso, io non ho niente contro le religioni, mi reputo laica, però penso che ci siano tante altre occasioni extrascolastiche per insegnare religione o storia delle religioni. Io proporrei che durante l'orario scolastico si potessero fare altre materie, secondo me molto più importanti per la formazione di un individuo, per esempio educazione alimentare, educazione civica, educazione ambientale, che io ne guardi, vedo Bertilla, di tutti i colori. Sì, lei tutto sommato coglie in un punto, perché prima di tutto grazie intanto per averci chiamato. La scuola viene tirata in ballo sempre, c'è il bullismo, bisogna fare l'ora di educazione, di antibullismo. Ci sono problemi ambientali, bisogna fare educazione ambientale, tema in discussione in queste settimane, ne ho letto un articolo proprio questa settimana. Educazione ambientale è proposta del ministro Martina, diciamo cogliere l'Expo per fare... Però forse visto le cose che accadono, se vogliamo dare una priorità ai problemi, comprendere le altre religioni mi sembra non è l'ultima delle cose, non è l'ultima delle preoccupazioni. No, e mi sembra anch'io peraltro un dato di fatto, nel senso che non è che si può, uno può anche essere ateo, appunto la signora diceva sono laica, siamo tutti laici perché nessuno di noi è un prete, però diciamo uno può anche essere laico, però non può far finta di non vedere quanto le religioni, quante le religioni abbiano cambiato il mondo, portino avanti dei pensieri, ce la facciamo in realtà la filosofia. Poi a fare un altro ascoltatore prima della pausa, Monia da Pesaro, va. Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Buona domenica. Grazie altrettanto. Salve. Io per quanto mi riguarda il discorso della storia delle religioni sono assolutamente d'accordo, purché sia storia delle religioni, non religione cristiana cattolica, quello che attualmente viene fatto nelle scuole. E lo dico avendo un bambino che attualmente frequenta la terza elementare. Ecco, un bambino che attualmente frequenta la terza elementare, cosa viene insegnato nelle scuole per quanto riguarda il tema religioni? Sì, assolutamente quella cristiana cattolica. Ok. Dalla prima fino adesso hanno fatto assolutamente questo. Invece lei, a lei piacerebbe che ci fosse invece un insegnamento più quindi con un approccio anche alle altre religioni per conoscerle? Ma assolutamente sì, innanzitutto è un ampliamento del mondo della conoscenza, e poi è da questa cosa l'accoglienza verso il mondo che è assolutamente diverso dal nostro, quello musulmano, quello ebraico, quello induista. Cioè i grandi gruppi religiosi fondamentalmente sono questi. Ma se non si insegnano queste cose, penso che sia assolutamente difficile capirlo fin dall'inizio, chiaramente. Poi è chiaro che queste cose vengono approfondite anche attraverso una ricerca personale, crescendo e così via. Però, come ha detto, grazie insomma, Monia, come ha detto Gabardini, com'è che hai definito il corso di specializzazione? Uno poi se lo fa, esatto, se lo fa il proprio, privatamente. Anche in un altro luogo. Sì. Sì, sì, sì, questo è anche il mio approccio personalmente parlando. 800 24 00 24. Ma cari anche, amici ascoltatori, anche se, che se posso dire una cosa, anche perché spesso conoscendo le altre religioni poi si apprezza anche la propria. Cioè, ho questa sensazione che molte volte noi che tendenzialmente nel paese siamo tutti cattolici e uno ha un certo tipo di rapporto con la religione, anche perché è poi la religione dei propri genitori, però nel momento che ne so che incontra il buddismo magari improvvisamente si ritrova ad apprezzare determinate cose, e di quella religione le apprezza, però invece è intimamente ha un'avversione per il Padre Nostro. Questa cosa è un po' un assurdo, è semplicemente un po' la novità. Ma il rapporto con l'alto, con l'altro, se vogliamo, è una questione che dobbiamo smazzarci tutti, come si suol dire, e quindi penso che sia molto importante scoprire anche le altre religioni. Cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per il personaggio della settimana, che è un personaggio femminile che tiene alta la bandiera del Made in Italy nel mondo. Facciamo una pausa, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale. fabbricando case. Rino Gaetano, questo è un tema che ci sta molto a cuore. Quello di Rino Gaetano, vi siete persi purtroppo, ascoltatori, il momento in cui Alessio Maurizi cantava Piano Regolatore ad altissima voce. Meno male che il microfono era spento perché sennò saltavate in aria tutto. C'è il problema abitativo ancora in Italia, lo sappiamo, anche questa settimana proteste da parte di aspiranti, inquilini di case popolari, persone che non sanno dove andare ad abitare. Se ne è parlato molto nelle settimane, nei mesi scorsi, ma non è di questo di cui vogliamo parlare. Vogliamo parlare di come in alcuni comuni italiani all'emergenza case non si risponde fabbricando case, come diceva Rino Gaetano, ma recuperando spazi di edilizia, residenze già esistenti. Perché? Perché si è capito che non si può continuare a costruire, a consumare suolo e nello stesso tempo lasciare abbandonate delle strutture già esistenti. Ne parliamo con il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, siamo in provincia di Milano, Daniela Accinasio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Buongiorno, grazie. Allora, voi vi fregiate del titolo, diciamo ad honorem, perché non è ancora stato riconosciuto da nessun ente certificatore, no, di primo comune cemento free d'Italia. Però è un po' questo, voi da un po' di tempo perseguite questa politica. Ce la vuoi raccontare, in cosa consiste? Ma è una decisione presa nel 2007. Quindi con studi chiaramente precedenti, ma nel 2007 è stato ratificato il piano di governo del territorio che prevedeva appunto il non consumo di suolo, quindi vuol dire che nessun ettaro, diciamo, di spazio verde, di parco, di giardino, di campo agricolo sarebbe più stato usato per costruire. Questa è stata la decisione presa nel 2007, precedente alla crisi economica, precedente alla crisi del mattone e così via. L'idea era di conservare il più possibile anche l'identità del territorio, no? Quindi uno dovrebbe studiare un pochino il proprio territorio, sapere dove si trova e capire che cosa può essere utile per lo sviluppo futuro. E quindi questa è stata un po' la visione che ha guidato la giunta precedente, che noi stiamo portando avanti, di mantenere il borgo e quindi anzi di favorire quello che è appunto il recupero di magari vecchie ville, vecchie cascine, per fare in modo che il borgo mantenesse l'identità che fosse sia identità sociale, identità architettonica e storica, e dall'altra parte favorire invece quello che poteva essere uno sviluppo delle industrie agricole, delle aziende agricole che noi abbiamo sul territorio. Ci sono tante cose che mi verrebbe in mente di chiederle, perché è un argomento questo che impatta tanti aspetti della vita. Intanto la casa è stata per anni l'edilizia, la casa, il settore della casa, vissuto come uno dei settori trainanti anche dell'economia, quindi sentire qualcuno penserà, sentendo parlare in questi anni, dice, ma così si ferma l'economia? Però, cari amici ascoltatori, io dico intanto la mia, poi lascio la parola al sindaco, non è che possiamo per tirare avanti, continuare a costruire, quando poi avremo esaurito lo spazio disponibile, cosa faremo? Forse è meglio inventarci un'alternativa prima. Intanto questo, poi il nodo economico, sindaco, perché è più, cioè costa di più ristrutturare o per un comune, io dico, o far costruire ex novo? Allora, intanto vabbè, le due cose. Uno, sul primo commento che lei ha fatto, il continuare a costruire oppure appunto le costruzioni che trainano l'economia, in realtà abbiamo visto che l'economia si è fermata, quindi forse non erano un traino così trainante, mettiamola così. Beh, in effetti, forse, vedendola così, non ha tutti i torti. No, nel senso che l'abbiamo visto, ma annunciato negli Stati Uniti proprio sul settore immobiliare, no? A crollare, sì. E quindi che poi è arrivato anche da noi, quindi effettivamente c'è stato forse una sovravalutazione di quello che poteva essere l'impatto economico dell'industria delle costruzioni. Dal punto di vista invece del costo, probabilmente costa meno costruire da zero, però anche qua dipende con quali criteri uno costruisce, perché se si costruisce anche qua in edilizia super economica, dove ci sono poi i muri di carta velina, gli spazi piccoli, ecco, anche quello sì, certo, probabilmente costa di meno, però invece costa di meno, prego, finisca. Sì, no, mentre invece probabilmente un recupero fatto a regola d'arte di un edificio, magari non dico storico, ma sicuramente che ha dentro, non so, di 100 anni, probabilmente ha un impegno diverso. Ecco, sì, poi ci sono dei costi che magari non appaiono, ma sono i costi ambientali, i costi ambientali e sociali di avere strutture di edilizia abbandonata oppure appartamenti vuoti in condomini, periferie integralmente tirate su male. Non è il caso vostro, per fortuna difendete questo modello e per fortuna, diciamo, tra i vantaggi di magari non tantissimi di vivere in piccoli paesi, in piccole città, c'è anche quello di non essere immersi in queste mega periferie degradate che poi sono fonte di mille problemi. Quindi ci sono dei costi che non appaiono, ma che invece voi avete cominciato a considerare e a farci conti, ed ecco da qui la vostra scelta, che tra l'altro ha anche delle conseguenze, sindaco, perché per farvi, diciamo, pubblicità e per finanziare lo sviluppo altrimenti finanziato dalla costruzione di case, avete cominciato a dar vita anche a questa iniziativa del matrimonio, dei matrimoni per la terra. Per la terra. Di cosa sì, no, l'idea, vabbè, ma lo sapete tutti, chiaramente costruire o dare permessi per costruire significa che il comune incamera gli oneri di organizzazione e si fa bello e fa tutte le sue belle opere, sistema le strade e così via. Mancando gli oneri di urbanizzazione viene a mancare al bilancio una grossa fonte, poi più o meno grossa, ma per i comuni grandi sono veramente tanti soldi. Nel nostro caso l'idea era, uno, non abbiamo grandi opere da finanziare. Quindi noi abbiamo costruito di recente, diciamo, una scuola materna, che era, diciamo, l'ultima grande opera che serviva al paese, però non abbiamo in mente grandi rivoluzioni, quindi uno, la contrazione della spesa nostra, però chiaramente bisogna poi continuare a fornire i servizi ai cittadini, che sono contenti di vivere qui, ma devono aver garantite alcuni servizi di base, e quindi era come possiamo recuperare delle fonti sul bilancio che al di fuori delle tasse. E come si fa? E appunto come si fa? Come si fa? Allora, primo abbiamo messo, diciamo, a frutto tutti gli spazi che sono di proprietà del comune, mettendoli per esempio in affitto per associazioni, per le feste, sono a disposizione per organizzare qualsiasi evento, in modo tale che da lì entrano dei soldi, quindi sono spazi comunali che vengono adibiti proprio come location. L'altra idea era ampliare la possibilità di sposarsi. In genere, quando ci si sposa in comune, ci sono degli orari prefissati che sono gli orari degli uffici comunali. Banalmente a Milano non ci si può sposare il sabato pomeriggio, perché gli uffici chiudono a mezzogiorno, o forse neanche il sabato mattina. Nel nostro caso ci si può sposare a qualsiasi ora del giorno, della notte, il 31 di dicembre o anche il 1 di gennaio, se si vuole, anche il 15 di agosto. Cioè, l'idea era diamo la possibilità di anche qua ampliamo un servizio. Ma se posso dire una cosa provocatoria, però, perché mi viene giustamente a prendere, mi sembra bellissimo che ampliate gli spazi per i matrimoni, già che ci siamo, ampliamoli anche per esempio per i matrimoni fra persone dello stesso sesso, perché così ci sarebbero ancora più persone. Mi scusi, ma Gabardini mi fa queste cose a gamba tesa così. Io sconfina. Sono molto d'accordo. Anche perché riparte l'economia. No, io sono molto d'accordo. Tra l'altro, vabbè, una delle prime cose che abbiamo fatto noi come amministrazione è chiaramente il registro delle coppie di fatto. Complimenti. Questa è stata, penso, una delle prime delle libri di consiglio, lo può andare a vedere. Il matrimonio fra persone dello stesso sesso per noi sarebbe, è un matrimonio come un altro, quindi, però è vero, si amplierebbe la fonte di business, mettiamola così. Esatto. Però appunto abbiamo questi problemi un po' di carattere legislativo che ancora ci impediscono Non volevo portarla a parlare di questo, grazie mille. No, io volentieri, sono disponibilissima. Va bene, sindaco, che dire, in bocca al lupo per le vostre... Volevo solo dire una cosa, se posso essere un filo polemica. Certo. Nel senso che noi ce la mettiamo tutta per fare questo. Poi abbiamo purtroppo Ubi Maior, tipo Regione Lombardia, che in realtà in questo non sostiene queste scelte. Questo però è un punto importante, sindaco, perché c'è stata una legge recentemente, una legge regionale, che ha un po' diviso. La regione, faccio io la premessa, poi le faccio fare il commento, naturalmente, quello che voleva dire. La regione l'ha presentata come legge che, diciamo, porta avanti un concetto di stop al consumo di suolo. Fra tre anni. le associazioni ambientaliste si sono in parte divise, perché mentre Lega Ambiente ha criticato abbastanza questa legge, ma anche l'opposizione in consiglio regionale, il WWF invece ha dato un'apertura, ed è una novità anche, diciamo, per quanto riguarda un rapporto anche tra il centrodestra e le associazioni ambientaliste. Spesso non c'è grande feeling. Questa volta invece si è aperto questa disponibilità a valutare questa legge, che invece lei come considera, come valuta? Male, nel senso che io sono un po' come l'opposizione in consiglio regionale, siamo contrari a questa legge, nel senso che siamo contenti che tra tre anni non si potrà più costruire. Cioè, però lei dice, io lo faccio già adesso, sono anni che me ne occupo, voi invece date ancora tempo. Tre anni, oltretutto si aprirà un intervallo di tempo in cui ci sarà addirittura una corsa. Qualcuno dice una corsa intanto a pianificare nuove costruzioni. In modo tale da potersi portare avanti, invece la regione Toscana ha detto stop da subito. Però anche l'assessore Beccalossi, che ha riconosciuto i limiti di questa legge da lei portata avanti, ha detto la versione precedente era migliore. Cosa è successo tra la versione precedente, che era migliore anche secondo lei, sindaco in prima linea su questo, e quello che è successo dopo? Questo sono intervenute le lobby? Immagino sì, nel senso che anche se noi sapevamo che alcune lobby, diciamo, chiamiamole lobby, anche di persone legate al mondo delle costruzioni, architetti, progettisti, erano comunque contrari a questo impatto che si avrà nei prossimi tre anni, perché il rischio è che appunto nell'ansia di doversi portare a casa permessi nel più breve tempo possibile, in realtà si vadano poi a realizzare opere, chiamiamole brutte, ma brutte in tutti i sensi. Speriamo proprio di no, ci manca solo questo. Però si va avanti così, il nostro territorio è minacciato da una tangenziale ormai da anni. Vabbè che la Lombardia ormai, mi spiace dirlo, ma insomma di danni ne sono già stati fatti parecchi, adesso mi tirerò dietro le critiche di chi dice no, non è così, eccetera, però insomma. No, ci sono alcune aree della regione Lombarda che sono veramente devastate. Sì, quindi sì. Se riusciamo a fermarci prima possibile, meglio è. Noi rinnoviamo i complimenti per le vostre iniziative, per quello che fate. Noi ci crediamo nel fatto che si possa. Siete tutti invitati a venire a vedere i risultati. Grazie. Arrivederci. Ci crediamo appunto che si possa smetterla di consumare suolo, diciamo, inutilmente, perché laddove c'è utilità, interesse reale per costruire nuovi ospedali, per esempio, certamente, per l'amor del cielo, però se pensiamo a quanto invenduto c'è nei nuovi condomini costruiti negli ultimi 10, 15 o 20 anni, c'è da domandarsi perché si continua a costruire. Anche per lasciare dello spazio delle nuove tangenziali, direi, esatto, perché se costruisci tantissimo, poi la tangenziale non riesci neanche a metterla. 00 24 00 24, mi viene da ridere. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare, e avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua, ascoltatori, a ritmo, perché dobbiamo ancora avere la risposta giusta per il nostro gioco della settimana. Andiamo con... Dobbiamo correre. Enrica, che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Posso fare due commenti sui discorsi della mattinata? Certo. Completamente d'accordo con il sindaco di Cassinetta, e anche noi a Inzago facciamo un lavoro e abbiamo un impegno come amministrazione comunale fortissimo. Bello questa. Noi, amministrazione comunale di Inzago. Perché lei lavora al comune di Inzago? Sì, al comune di Inzago. Bello, questa me la segno. Settimana prossima facciamo anche Inzago, perché tutti i comuni che fanno stop al cemento, secondo me, bisogna fare pubblicità. Prego. Esattamente. Altro pensiero: fabbrichiamo comunità, costruiamo comunità e bellezza. Basta cemento, basta questo. Io comunque ho telefonato per il nome della donna, sì. Per me è Samantha Cristoforetti. Wow, Samantha Cristoforetti ci sta sempre. Ma non è lei. No, diciamo ci adesso... sta, perché sta diventando un po' il nostro totem. Il lato femminile di Oscar Farinetti. Di solito c'è sempre qualcuno che chiama dicendo che il personaggio è Oscar Farinetti. Quando è una donna ci chiamano e ci dicono che è Samantha Cristoforetti. E del resto è, insomma, ed è giusto, è un personaggio. È giusto. ci guarda dall'alto. Ci guarda dall'alto, piace, piace molto, piace a tutti, è un simbolo bello, insomma è così, non c'è niente da fare. E quindi viene fuori. Sergio da provincia di Venezia, buongiorno. Sergio? È personaggi. Buongiorno. Personale. Sì, pronto. Prego, personaggio, sì, Sergio, prego. La mamma del Papa. La mamma del Papa. La mamma del Papa. Esiste la mamma. Cioè, è la risposta più bella di sempre, questa. Come mai dice la mamma del Papa? Perché per il pugno, per la reazione. Se mi offendi la mamma, ti do un pugno. E quindi la mamma del Papa. Esatto. Sergio, è bellissima questa cosa qua. Devo dire che non avevamo pensato a questo, Sergio. No, abbiamo parlato ieri. Grazie. Molto in realtà della mamma del Papa, appunto. Però, dando la notizia, diciamo, del pugno. Che volendo ha ragione, cioè ha più ragione Sergio, molto più ragione Sergio di noi. Cioè, era questo il vero personaggio femminile della settimana, la mamma del Papa. Forse perché sì. Non ci hai pensato, Carlo? Cosa pensavi stamattina quando abbiamo deciso? Guarda. Vabbè. Mi sto cercando di informare e cerco di capire se è Regina Maria Sivori. Vabbè. Va bene, andiamo avanti. Andiamo con Gianna, buongiorno. Gianna da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Aspetti che spengo la radio, okay. Brava, ci ascolti al telefono. Sì, sono qua, buongiorno. Perfetto. Dunque, io anche volevo dire la mia idea sul personaggio. Prego. Della settimana, credo che sia Frida Giannini della... La stilista di Gucci. Hola, Giannini. Qua si va sul vero made in, su si vola alto, beh, avete parlato di Made in Italy. Qual è la notizia però? La notizia quale sarebbe? Quale sarebbe che ha lasciato Gucci o è stata lasciata a casa da Gucci. Quindi, si sono lasciati, insomma. Possiamo dire una cosa: non è questo il personaggio. Ringraziamo moltissimo di aver chiamato e aiuterà i prossimi ascoltatori, perché diciamo che in qualche modo ci è andata vicina. 800 24 00 24. Facciamo anche Antonio da Varese, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, come state? Molto bene, lei? Io benissimo. Oh, fantastico. Qui a Varese c'è il sole finalmente. Dai, mi giro e guardo. Com'è a Milano, insomma, niente di diciamo, che. Non si vede fino a Varese da Milano, diciamo. Prego. Ci dica. Sentite, è stato carino quello che avete detto in conclusione dell'intervista di poc'anzi rispetto a perché si continua a costruire le case. Sì. E mi ricordo ancora di 40 anni fa. C'era un cantante che già cantava questo. La via Gluck, vabbè, però Antonio, che facciamo? Nostalgici. Sono passati 40 anni e 40 milioni di tonnellate di cemento. Va bene, non fa niente, era solo un pensiero. No, ma è perfetto. No, ottimo, mi scusi, ottimo, mi scusi. Ottimo. Era questo il motivo del suo intervento, Antonio? No, era per tentare di indovinare il personaggio. Pensavamo che volesse dire Celentano come personaggio, e quindi stavamo ricostruendo gli indizi. Prego, ci dica. Potrebbe anche avvicinarsi, ma no. Giusto, ci dica. Mi metto un personaggio, però ho cambiato idea nel frattempo. Si può fare? Si può fare. Ci dica. Si può fare noi, come possiamo dirle di no? Si può fare. Posso dire il personaggio che pensavo, ma non penso più. No, ce ne dica uno solo. Perché ce ne dica uno. Le regole sono queste. Un personaggio bene, si allora può dire. Un secondo. E questo qui, allora. Per me è Donatella Versace. Donatella Versace. Nine, adesso non mi dica qual era l'altro, perché sennò mi brucia la possibile risposta giusta. Ci ascolti e veda se ha sbagliato. Se aveva indovinato magari. E se grazie mille per aver chiamato. Grazie Antonio. Grazie. 800 24 00 24. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Vabbè, Frecca Energy pedala, ogni volta che parliamo di bicicletta ci sta, ci piace molto. Questa volta la notizia è questa, c'è una giovane startup italiana che ha avuto un recente riconoscimento, premiata dalla Ford durante il CES di Las Vegas, e la startup si chiama Bikey Bike. Noi abbiamo convocato Matteo Spaggiari, buongiorno. Buon- Buongiorno, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene. Rappresentante ingegnere che lavora a Bikey Bike, qual è il riconoscimento che avete avuto a questa importante fiera di Las Vegas? Abbiamo avuto uno special award per la tecnologia nel campo automotive. Praticamente si trattava di un concorso organizzato da Extreme Tech Challenge, che è un concorso in cui partecipa anche Richard Branson come fondatore. Pensa un po'. Cioè quello della Virgin, intanto per intenderti. Esatto, esatto, tant'è vero che i primi 10 andranno sulla sua isola tra un mese per fare il pitch e quindi presentare la propria idea direttamente di fronte a lui. Ah, quindi anche voi siete in corsa? Allora, noi siamo in corsa, sì, però purtroppo... Per andare sulla Luna, perché lui si occupa anche di viaggi sulla Luna. Sì, oddio, esatto, ultimamente c'è stato qualche problema, anche lì. Scusi, scusi, prego. Noi purtroppo non riusciremo ad andare a febbraio, ma ci stiamo organizzando per maggio. Ah, va bene, quindi insomma siete comunque in corsa. E la tecnologia per la quale siete stati premiati è il cuore, diciamo, del focus della vostra produzione. Ce lo dica lei di che cosa si tratta? Si tratta di un motore elettrico estremamente innovativo che può trasformare qualsiasi bicicletta in una potente bicicletta elettrica. Tac, eccolo lì. Devo dire, io sono andato sul sito, naturalmente, prima di fare l'intervista, e ho visto le straordinarie potenzialità di questa applicazione, perché la bicicletta elettrica in genere è associata anche a un'idea un po' di un certo tipo di uso della bicicletta, non proprio super sportivo, insomma, il nonnetto che va a fare la spesa. No. E invece il moschito. Invece qua abbiamo biciclette straordinarie. C'ho Carmelo Lauricella qua in regia, che è un grandissimo ciclista. Secondo me potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi, cioè bici sportive, bici belle. Sì. Lo scopo è proprio quello. Noi veniamo e nasciamo in quella che chiamano la Motor Valley, quindi la terra dove vengono Lamborghini, Ferrari, eccetera. E quindi abbiamo pensato proprio di ridisegnare il concetto di bicicletta elettrica e di renderlo un po' più sprintoso. Ecco, ma per esempio uno dove può andare? Perché vedo appunto Carmelo Lauricella un po' dubbioso in regia. Ora, ho detto un grande ciclista, lui si è sottratto a questa definizione, ama andare in bicicletta, no? Cioè fa la ciclette mentre fa la regia del programma, ecco, diciamo, sì. Questo è sostanzialmente. Quali sono i percorsi che uno può fare? Perché uno prende la bici perché ama pedalare, no? Invece voi proponete questa soluzione che invece viene incontro a quale necessità? Ma abbiamo visto che c'è un forte interesse da parte del pubblico, sia quello esperto, quindi gli atleti che vogliono prepararsi per fare delle gare anche in mountain bike, e quindi durante il periodo di allenamento, all'inizio della stagione, cominciano a fare dei giri in bicicletta, ma non hanno ancora quell'allenamento che gli consente di fare dei chilometri, ai chilometri su percorsi impegnativi. L'aiuto del motore in punti critici può far sì che loro riescano a fare su questi sentieri di montagna sterrati un giro più lungo e quindi iniziare pian piano ad allenarsi. Mi sembra una cosa perfetta. Io molto più stupidamente avevo pensato che fosse molto utile per andare tutto in salita col motore e poi andare giù in discesa senza motore, diciamo, esatto, per andare su una collinetta. Esatto, il downhill è un'altra applicazione e quella che sembra riscuotere maggior successo è per le mogli degli atleti. Per stare dietro a ruota. Senta, ma quanto pesa questo motore che si applica alla bicicletta? Così, il motore pesa 4 kg, la batteria 3 kg, quindi siamo sui 7-8 kg. Beh, insomma, è un peso che cosa equivale? A una cassa d'acqua che uno si porta dalla spesa, sì, oppure a un bambino piccolo di 2 anni, insomma, tanto per intendersi, no, forse anche meno, cosa ho detto? 7 sì, kg, la cosa positiva è che il peso comunque in posizione centrale è molto ribassato. Molto bilanciato. Va bene, insomma, questa è la vostra sfida. Il sito, diciamolo, se qualcuno è interessato, bikeybike.com. E ancora complimenti per questo riconoscimento che intanto una nostra azienda ha ricevuto in un contesto internazionale. Ci fa sempre piacere. Per grazie. Le mogli degli atleti poi è molto bello. Questo o per bello. I mariti delle atlete comunque. Certo, pensiamo anche a loro. Pensiamo anche al contrario. 800 24 00 24 traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con gli ascoltatori. Ci ha chiamato Antonio da Bari. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Per la risposta, sì, io avevo pensato, spero che sia la Milena Canonico candidata per l'Oscar per il film Grand Hotel Budapest. Voglio sperare. E in zona Cesarini ha vinto il nostro premio Antonio, bravo. E tra l'altro in un'unica frase ha detto anche la notizia. La notizia è molto chiara, molto precisa. Ha è detto da Canonero tutto. Che direi per la nona volta, se non sbaglio, sì. È candidata all'Oscar, alla nomination, diciamo, degli Oscar. All'Oscar per i costumi. Ci consente di non sparire completamente dalla notte degli Oscar dopo il grande successo, esatto, dell'anno scorso con La Grande Bellezza. Grazie Antonio, vince i biglietti. Mi sta andando via la voce. Di Chagall, complimenti. La Canonero, diciamo, è la nostra grande bellezza di tutti gli anni. Ha anche già vinto anche tre Oscar scorsi. Ricordiamo Barry Lyndon, ricordo, nel 76. Fantastico. Adesso è il momento di Federico Taddia, Cal Founding, vai. Non c'è la musica? Non me l'avete messa? Federico, buongiorno. Oh, me lo posso permettere. Bravo. Non so, ci siamo dimenticati di caricare Caparezza. Ciao, buona domenica. Ciao, come stai? Ciao. Tutto bene, grazie. Senti Fede, oggi in quale mondo? Noi abbiamo parlato di una bella startup italiana, però c'è chi deve ancora arrivarci, insomma, a quel livello, e cerca soldini sulla rete, e noi gli diamo una mano. E noi diamo una mano, invece oggi giochiamo in casa, perché il primo progetto che vi propongo è quello della realizzazione di una radio in valigia, una radio itinerante, una radio compatta che tutti possono realizzarsi in casa e tutti possono poi, appunto, essendo trasportabili, utilizzare. È un progetto lanciato da un'agenzia che da anni si occupa di fare informazione sociale, sto parlando di Amisnet, agenzia romana, che ha proposto questa radio compatta, coinvolgendo varie realtà del territorio, per esempio l'involcro in cartone costruito da Officine Zero, che è una fabbrica romana riconvertita in centro di riciclo, gli stessi microfoni sono microfoni artigianali ricostruiti, lo stesso software è un software ottenuto dal recupero di materiale elettronico. Si chiama una radio in valigia, 3.500 euro è il costo di questo assemblaggio, che è pensato proprio per portare la possibilità di fare informazione là dove magari non arrivano i canali ufficiali o dove è complicato arrivare con una radio strutturata, diciamo. Molto divertente il settore ricompense, perché con 10 euro un ringraziamento nei titoli di coda del programma, quindi ci siamo. Con 25 euro invece la ricompensa è un pugno di semi contadini che ti arrivano a casa per far germogliare piante. Proprio un pugno? Perché un questa pugno. Settimana il pugno è papale, come papale, prende, esatto. Papagno, vai. Con 150 euro ti fanno un audioritratto, nel senso tu rispondi a qualche domanda e si riceve a casa una clip sonora a misura su di te, e mi sembra geniale come ricompensa. Ma mi sembra in generale bellissimo questo progetto, anche se lo sto un po' leggendo come per dire, come se tu mi stessi o volendo cacciare, diciamo, nel senso che dici metti la radio in valigia, vai via da Radio 24 e vai in giro con la tua bella valigina. Personalizzi troppo. Insomma, quindi questo è il primo progetto. Abbiamo tempo per un secondo? Certo. Aspetta però. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Ecco, scusa, no, perché a questo punto è diventata una questione però, di principio. Però dobbiamo per dire di sì. Invece per dire di sì. Vai, esatto. Fede, vai, vai. Ma questa è Radio 24 più 1, cioè arriva l'ora dopo. Ma... esatto. Il secondo progetto, anche questo mi piace, si chiama Macachite, Save the Nature, Salva la Natura. È un progetto lanciato da due giovanissimi ricercatori che cercano di rispondere a un problema che è un problema reale, che è quella della diminuzione drastica in tutta Europa delle farfalle da prato, le farfalle che tutti noi conosciamo. Hanno realizzato un kit per poter allevare la farfalla in casa. È un kit non solo educativo, nel senso che non si fanno informazioni, ma tu segui proprio dalla crescita allo sviluppo della farfalla in casa tua, che in questa bello. Sorta di scatola. Perché ma non è difficile come cosa? Allora dicono che sia più facile che allevare un pesce rosso. Questo è l'esempio che fanno nel presentare il loro progetto. È veramente una scatola di cartone, dentro c'è questo kit molto agile che permette di così diffondere biodiversità attraverso le farfalle. Quindi loro sono 8.400 euro è il target, loro dicono che già 15.000 euro li hanno investiti di loro per studiare questo kit. Sulle ricompense loro invece sono molto diretti, nel senso che ti fanno gli sconti sul kit e ti danno la possibilità di personalizzare il kit, quindi tu puoi avere la scatola del kit col tuo faccione, puoi farci un set da questo regali. Mi piace molto, quasi quasi vado subito. Ci ricordi il sito? Allora, Maca Kit Save the Nature è il nome del progetto, Produzioni dal Basso è la piattaforma su cui stanno raccogliendo. Questa cosa potrebbe intrigare anche mia figlia Viola, che ha 4 anni. Bellissima, grazie Fede. Grazie con questo mille. Ci salutiamo e ci ritroviamo domenica prossima. Ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Questa è bella davvero, questa cosa delle farfalle. Io sapevo delle api che stanno sparendo e sono un problema, adesso ci sono anche le farfalle. Preoccupiamoci, insomma. Occupiamoci. Occupiamoci anche delle farfalle. È tutto, ciao. Io ringrazio come sempre Andrea Piano, torna insieme a noi del programma, ma anche Claudia Schiattone e Miriam Lucchetti, che è stata anche oggi con noi in assistenza in diretta, è un po' anche il suo esordio con noi, grande Miriam, grazie. Carmelo Rocella in regia, ci sentiamo sabato prossimo, ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi, buona domenica.